Ora volevamo affrontare, cioè con noi una compagna qui in studio che ci ha raggiunto da poco, un altro, diciamo, tema, argomento, mi dichiaro abbastanza ignorante in merito. Infatti, insomma, come dire, volevo chiederti alcune cose, sapere alcune cose, perché sempre in quel filo diretto che ci vuole far leggere, insomma, un po' anche la logica, o comunque il perché di una serie di flussi migratori che stanno investendo anche il nostro paese, no? Fino a qualche poco anni fa alcuni flussi migratori non c'erano, e con te quello che volevamo, insomma, riflettere a voce alta, per quello che tu sai, insomma, per i dati che possiamo valutare insieme, è questo flusso migratorio cinese, insomma, che un po' sta aumentando. Non so, quello che ti volevo chiedere è, non so se c'è dei dati già in atto, se questo sono dati che escono solo dai centri d'accoglienza, insomma, se quindi c'è una struttura, no? Mentre rispetto è più semplice parlando, che so, quanti sono le migrazioni dal Nord Africa, già sono state più, come si dice, insomma, quindi, sono numeri, o quanto è la comunità, che ne so, di quel paese qua. Non so per i cinesi quanto è possibile farlo, fatto è anche, come dato di fatto, insomma, che noi abbiamo un quartiere qui vicino a San Lorenzo che è Esquilino, in cui la loro presenza è molto forte. Io me lo ricordo, negli anni passati c'è stato un periodo in cui era molto forte la presenza araba, anche di negozi arabi, eccetera. Adesso è cinese, insomma, che cosa è avvenuto, che cosa sta cambiando, da che dipende? È solo un problema migratorio di investimenti o d'altro tipo? Sì, allora forse possiamo ripensare questo flusso migratorio cinese in un altro modo. Tu giustamente facevi riferimento all'Esquilino, beh, in realtà da quello che possiamo vedere circa da un paio d'anni, io direi da fine 2015, c'è una nuova presenza cinese in Italia, ma anche in Europa. Tuttavia non è la migrazione a cui siamo abituati. Ora, non per scindere la migrazione socio-economica dai rifugiati e dai richiedenti protezione internazionale, però forse io direi per la prima volta in Italia ci stiamo confrontando con una migrazione, dunque con persone rifugiate che vengono appunto a chiedere la protezione internazionale per motivi di persecuzione religiosa. Questo è quello che loro portano, quindi è una migrazione nuova, tutto sommato, anche se, non tutto sommato, proprio nuova. Ma nuova solo rispetto ai cinesi o nuova in generale rispetto anche ad altre? Beh, rispetto ai cinesi decisamente le ragioni sono totalmente nuove, appunto, non è un tipo di migrazione cinese che si conosceva prima, le ragioni sono proprio tutt'altre, tant'è vero che parliamo proprio di comunità di persone afferenti a varie chiese domestiche evangeliche, cristiane evangeliche, che riferiscono, insomma, di fuggire dalla Cina per motivi religiosi. E questo, come puoi immaginare, mette in profonda crisi il sistema dell'accoglienza. Ma perché mette in profonda crisi? Perché, diciamo, se da un lato già le commissioni territoriali, dunque il Ministero dell'Interno, non sono accoglienti di per sé, lo sono ancora di meno con una popolazione molto ben, già molto ben presente sul nostro territorio, perché quello che pensano, quello che si dice, poi che viene veicolato nell'ambito proprio di chi lavora, insomma, di noi operatori della migrazione, è proprio quello di l'ennesimo cinese che viene per colonizzare, diciamo, c'è molto questo concetto che va di moda, anche purtroppo ce l'hanno un po' espropriato, questo della colonia, nell'ambito delle commissioni territoriali, per aprire altri negozi, per far commerci in Italia. Invece siamo di fronte proprio a tutt'altro tipo di fenomeno, siamo di fronte a persone religiose che in Cina raccontano, narrano di non poter esercitare questa fede. Però aspetta, sì. Tu parlavi di chiese evangeliche, sì. Siccome la notizia sulle persecuzioni religiose, forse anche, insomma, la mia ignoranza, però quella che era uscita un po' sui giornali di più parlava di questi gruppi Falun Gong, sono le stesse cose oppure? Sì e no, nel senso sia Falun Gong sia altri, un'altra chiesa molto importante adesso, insomma, molte persone di cui sappiamo fanno parte di questa chiesa enorme che si chiama Almighty God, e molto presente sul territorio romano così come nazionale, ma anche in Europa, ripeto, Francia, parliamo di Francia, Spagna, Inghilterra e molta Germania. E sono chiese evangeliche queste che stiamo quindi nominando, cristiane, ma Falun non Gong sono domestiche, no, però. Sì, però non sono domestiche, questo è importante. Esatto. La differenza. Diciamo, si tratta di chiese, possiamo dire in maniera molto più così divulgativa, meno organizzate, cioè la chiesa domestica sono piccoli, si tratta, diciamo, lo possiamo dire così, dei piccoli gruppi di persone, anche 3-4 persone, che si riuniscono in delle case in maniera carbonara, proprio per fuggire ai controlli governativi. Perché, sebbene la religione sia possibile, è possibile esercitarla, anche sancito nella Costituzione cinese, questo poi ci viene detto non si traduce effettivamente in una reale libertà religiosa. Nel senso, ci sono anche le chiese, c'è una chiesa evangelica governativa, una chiesa evangelica statale, di Stato, e a cui però una serie di persone, molte delle quali appunto quelle di cui stiamo parlando adesso, non afferiscono. Quindi al di fuori del controllo governativo decidono di afferire, di professare la loro fede in ambito casalingo, in ambito nascosto, proprio per non essere perseguitati, per non essere presi, per non essere controllati, perché poi invece si vengono riportati, ma questo anche diciamo da letteratura ormai internazionale, report, da Amnesty, poi insomma basta digitarlo, si può googlare, insomma veramente ormai è abbastanza comune questa cosa, come notizia intendo, sta su tutti i media internazionali, e non è possibile appunto praticare la religione, dunque si parla di incarcerazioni, di torture, di violenza agite proprio nei confronti di donne e di uomini. E questo rispetto a quello che avviene giù, sì. La necessità di fuga, di tutela rispetto a quella che è un diritto da un punto di vista almeno delle nostre regole, delle regole europee, no? Perché uno dei motivi per cui può essere dato lo stato di rifugiato o richiedente asilo è proprio persecuzione anche religiosa. Come dicevi, come è affrontata? Quanti sono le accettazioni? Ci sono dei dati o no? Non lo so, rispetto sì, a queste richieste. Diciamo, questo è tremendo, feroce come al solito, il dato è brutto assai, perché se prendiamo il sito del Ministero dell'Interno risultano negli ultimi 3 anni, probabilmente per motivi, ma questo anche da pubblicazioni, insomma qualcosa è stato detto, di facilitazione del rilascio dei visti in Cina rispetto ad Expo e al Giubileo, quindi c'è stata una maggiore facilità proprio di poter avere il visto per viaggiare in Italia. Non credo perché l'Italia fosse scelta come meta di chissà cosa, in realtà, anche se in un primo momento si era pensato un po' per ai fini della cristianità, no? Invece poi si pensa di no. E negli anni ci sono state circa, io direi, 1500 persone dal 2015 ad oggi, e non 1500 persone che hanno fatto richiesta di protezione internazionale, non che tutto sommato è pochissimo, sì, però rispetto al numero dei cinesi. E io direi che, m'azzardo a dire, questo secondo la mia esperienza e secondo quello di compagni e di compagne che lavorano in centri di accoglienza, insomma che si occupano di migrazione in ambito nazionale, che il 99,99% delle persone di cui stiamo parlando è stato diniegato in sede di commissione territoriale. Invece sta avvenendo un'altra cosa. Visto che parliamo ancora di persone che sono entrate in Italia tra il 2015 e il 2016, ce la siamo un po', diciamo, giocata a cavallo del decreto Minniti, per cui è stato possibile poi lavorare con avvocati, con le stesse persone, per poter cercare di capire come presentarsi dal giudice e poter esercitare un diritto, che è anche soltanto quello di far conoscere la propria storia, visto che appunto già non entriamo nel merito della Convenzione di Ginevra, ma appunto le motivazioni religiose sono fra quelle per cui bisognerebbe rilasciare e dare lo status di rifugiato. Questo invece non avviene, che rientra proprio nel principio della non credibilità. La persona non è credibile perché non porta delle prove significative, non le porta impresse nel corpo, secondo le commissioni territoriali, non porta delle narrazioni abbastanza congruenti. Tutto ciò che loro raccontano non è reale. Invece, appunto, la cosa interessante è che poi, su cui poi bisognerebbe ragionare, è che i giudici comunque in fase di ricorso, stanno invece dando da circa un anno e mezzo anche protezione sussidiaria, umanitaria e protezione sussidiaria. Dunque che cosa accade? Cioè, quindi parliamo da un lato il governo, dall'altro i giudici. Bene, ancora in onda, ancora dalle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, frequenze non ci stancheremo mai di ringraziare chi ci ascolta dalle frequenze, come dire, nel a volte ho dei vuoti, nel non via web, insomma nell'aere, come si dice, insomma sull'onda, proprio anche per il sostegno dato, insomma, al nuovo trasmettitore che a breve compreremo e quindi le nostre voci sentiranno, spero, ancora meglio, però insomma sempre su quest'onda. Stavamo parlando di migrazione, una migrazione particolare di cui ci stai raccontando, quella per motivi religiosi di alcune chiese domestiche, come le avevi chiamate, comunità cinesi, poi ci hai spiegato anche bene qual è la differenza. Allora, quello che ti volevo chiedere è: questo è un fenomeno che, insomma, noi riusciamo, magari anche piccolo rispetto ad altri flussi migratori che sono più vicini a noi, no? Che riguarda l'Italia, ma riguarda, che tu sappia, solo l'Italia, oppure ci sono in Europa, questa presenza, insomma, è già forte, primo. Sì. Secondo, poi, dicevi, ci sono meno, vengono dati meno visti. Però in realtà i visti li diamo noi italiani ai cinesi che vogliono partire, quindi sono i nostri consolati, le nostre ambasciate che non rilasciano dei visti rispetto al periodo del giubileo. Quindi, insomma, anche valutazione tua, che cosa è cambiato? Che cosa ci si aspetta? Perché poi i numeri dell'invasione non ci stanno, mi pare. No, assolutamente no. E allora, insomma, mi chiedevo che cosa sta succedendo, che cosa rispetto a questo aspetto. Diciamo, allora, per quello che io so, come accennavo prima, in Europa per altri motivi, ma quindi in fasi diverse, in anni diversi, ma un anno prima, un anno dopo, e forse ancora in alcuni contesti è un pochino più in atto che in Italia, perché invece da noi ho notato che io e altri compagni, insomma, abbiamo notato che nell'ultimo anno invece questi flussi si sono abbastanza fermati, proprio per i visti che ti dicevo prima, quindi ex per giubileo, e quindi invece sono contesti quali la Francia, la Spagna, la Germania e l'Inghilterra, dove abbiamo notizia che invece abbiamo quasi gli stessi numeri di persone cinesi richiedenti protezione internazionale, e sempre per motivi religiosi. Quindi a differenza delle persone cinesi di nazionalità cinese che afferivano prima in questi paesi e in Italia stessa, per tutt'altre ragioni. E invece rispetto a quello che mi dicevi appunto dei visti, diciamo, allora perché i turisti? Cioè, se tu mi dici giustamente che da una parte vediamo che stanno diminuendo, che comunque si è aperto questo canale per le persone che dicono di fuggire per motivi religiosi, che cosa succede invece con i turisti cinesi che ne vediamo abbastanza, che vediamo numerosi? Esatto, ma consideriamo che si tratta di una migrazione che prima di avvenire in Italia è interna alla Cina. Quindi questo significa che le persone di cui abbiamo notizia, insomma, di cui abbiamo contezza, stanno anche anni dentro la Cina prima di poter fuggire. Quindi nel momento in cui avvengono questi controlli, queste violenze, queste torture, anche queste incarcerazioni in Cina, le persone cominciano a fuggire e a nascondersi, dunque compiono e conducono una vita veramente in estrema solitudine e carbonara. Quindi segregati in casa, chiusi senza lavorare, ospiti da altri confratelli e consorelle, come loro stessi li definiscono. Per cui da lì a poter avere poi il coraggio di chiedere un visto e il passaporto, perché poi parliamo di due tipi di documenti, è molto complesso, ma non perché siano stati identificati, perché spesso loro stessi raccontano di dare documenti falsi, di non dare le proprie generalità, anche perché nell'ambito delle stesse chiese raccontano di utilizzare nomi fittizi proprio per non essere riconosciuti neanche fra confratelli e consorelle. E quindi, cioè, abbiamo considerato quanto può essere difficile per una persona cinese che arriva qui e quindi chiedere un visto in un certo momento storico, e dopo aver fatto un viaggio in altre province rispetto a quella di nascita per circa un anno, due anni, un mese, tre mesi, non si sa. E poi appunto non c'è soltanto l'Italia e l'Europa, molti vengono richiesti per il Canada, per gli Stati Uniti, perché parte di queste chiese, quantomeno negli Stati Uniti e in Canada, negli Stati Uniti lo conosciamo tutto, ci sono delle comunità cinesi molto più importanti, molto più grandi. Sì, ma infatti una di queste chiese, quella che abbiamo nominato prima, la chiesa di Almighty God, ha una rete fondamentale importantissima negli Stati Uniti, e quindi un grande supporto proviene da lì. E quindi è ovviamente meta di profonde migrazioni lì dove è possibile, ripeto, spesso ci viene, diciamo, da quello che sento nei circuiti e da colleghi, da amici, da compagni e compagne che so come migrazione, adesso in particolar modo di queste persone, appunto si dice che il primo visto disponibile veniva preso. Ecco perché poi dico l'Italia nel nostro immaginario. No, infatti mi chiedevo perché di botto c'era, sì, sto flusso stava cambiando, per quanto piccolo. No, è proprio, direi, veramente una casualità, cioè un'apertura, una possibilità che c'è qui, ma lo stesso sta avvenendo in altri contesti. Altre persone che stanno appunto nei paesi che ho nominato prima ci dicono la stessa cosa. Poi appunto c'è spesso questa, no, la tendenza all'invasione, le persone, questi flussi tremendi, questi flussi enormi, insomma questo spavento da parte delle commissioni territoriali di fronte a 1000 persone, insomma, non soltanto, a parte non è mai significativo anche rispetto al numero dei rifugiati richiedenti protezione internazionale, sentivo che, insomma, prima parlavate di Egitto, ma no. Questa dicotomia e questa ferocia, diciamo, nei confronti dei migranti, che ovviamente non sono i numeri che vengono poi ventilati dai media, questo lo sappiamo, e dei cinesi veramente, cioè da qui a parlare di invasione e di temere che sia l'ennesimo flusso che stiamo aprendo al nuovo mercato cinese, di certo non so, quattro gatti cristiani evangelici che dovrebbero spaventarci, come d'altronde nessun altro tipo di migrazione, insomma, questo giusto per ridircelo, ma va da sé. No, però poi, insomma, anche per affrontare le motivazioni dei vari flussi migratori. L'altra cosa che volevo chiederti, insomma, sempre se tu ne sei a conoscenza, invece, comunque, lo dicevamo all'inizio, una comunità anche qui cinese più venuta come investitori, quindi non come migranti, ma con la possibilità, no, di aprire attività economiche e quant'altro, c'è. So. Sì. Che tipo di rapporti, cioè che tipo di sostegno? Facevi il caso dell'America in cui una di queste chiese è molto forte, quindi dà un sostegno insomma anche alle persecuzioni. Qui da noi? No, qui da noi per quello che so le persone richiedenti protezione internazionale in motivi religiosi si guardano molto bene dalle comunità cinesi locali, perché appunto portano un altro tipo di fede, cioè temono di essere individuati, temono di essere controllati, si tratta di persone profondamente impaurite, io direi terrorizzate, insomma, che con difficoltà vengono contattate anche da chi lavora nell'ambito dell'accoglienza, e azzardo a dire fortemente traumatizzate, perché molte di loro, soprattutto molte donne, portano una serie di violenze anche sessuali che sono state agite nei loro confronti nelle carceri, soprattutto da poliziotti, ecco. E per cui il timore di essere poi, di ritrovarsi di nuovo in Cina o di essere appunto contattati qui dalle reti cinesi locali e di essere individuati, di essere visti e scoperti altissimo. Tant'è vero che qual è il problema, per esempio? Nell'ambito delle commissioni territoriali spesso l'interprete è cinese e non fa parte delle comunità, ma è una persona cinese, di nazionalità cinese inserita nel tessuto nazionale. Per cui che cosa accade lì? Che la persona a fronte dell'audizione non vuole parlare, o comunque non riesce a dire tutto per timore che poi non soltanto diciamo si trova ovviamente di fronte a una sorta di interrogatorio di fronte alla commissione, non solo, ma anche una persona della propria nazionalità di cui non si fida, diciamo, non si fida assolutamente, e questo viene palesato non in sede di commissione ma immediatamente dopo. Quindi questa cosa diventa ancora più insomma complessa. Sì, però quindi dicevamo che questo è proprio perché non hanno dei rapporti con le comunità cinesi esistenti, insomma, nelle nostre città, insomma, alcune città di più, di meno, col tessuto economico, ovviamente tutta la Toscana, l'area di Prato e quant'altro, no, fanno più richiesta dei centri di accoglienza, questo mi stai dicendo? Oppure hanno altri canali ancora d'accoglienza? È interessante questo che mi chiedi. Sì, da quello che so, fanno richiesta non tanto nei centri d'accoglienza quanto si stanno auto-organizzando, si stanno riproducendo qui le comunità evangeliche, le comunità cristiane che o c'erano in Cina o ne vengono create di nuovi perché si incontrano, si riconoscono e si incontrano. Però non legate dove c'è già una presenza, come dire, precedente della comunità cinese con attività imprenditoriale, economica, no, quelle di cui leggiamo tutti i giorni. Le temono molto, perlomeno adesso, diciamo, per quello che io so, il quadro potrebbe essere questo. Poi probabilmente le cose cominceranno con il tempo a modificarsi, d'altronde è un fenomeno veramente molto nuovo e poi la sensazione è proprio quella che lo stiamo guardando adesso, è proprio una fotografia di quello che sta succedendo, quindi da qua a qualche mese immagino che più le persone si stabilizzano, più acquisiscono dei diritti, più acquisiscono contezza proprio del diritto, più sanno che lo possono esercitare e che ce l'hanno, e più le cose si modificheranno, immagino. No, poi immagino, insomma, come dire, dal mio punto di vista, che mi piace girare il mondo, e quindi questa libertà al di là insomma della scelta e della costrizione la vorrei per tutti, non solo per girare ma anche economicamente, cioè, mettendo questa breve premessa, però mi sembra di capire che le distanze ormai tra un'area del mondo o l'altra, in virtù di 2000 meccanismi, social network, la comunicazione, gli aerei a basso costo, insomma, si stanno accorciando. Quindi in realtà, se uno si poteva aspettare prima che molti pochi migranti sarebbero arrivati dalla Cina o da altre parti del sud-est asiatico, in cui pure si legge poco, ma noi insomma che siamo un po' più interessati leggiamo quello che succede poi, o nel corso degli anni abbiamo letto che cosa insomma succedeva in Myanmar, ex Birmania, in Cambogia e quant'altro, se volete la stessa Thailandia, no? Tutte le famose mete turistiche, però le condizioni di vita sono altre cose di chi non è turista. È ovvio che insomma, se alcuni prima provavano di più andare verso l'Australia o sì, verso l'America, altri miti si stanno un po' modificando, insomma queste distanze nel mondo si accorciano, l'Europa per molti versi diventa appetibile, sì, e anche tra i poveri d'Europa, tra virgolette, anche l'Italia diventa appetibile, o no? Sì, per poi diciamo da un lato dopo i saccheggi, non vorrei, ovviamente poi mi ripiego su queste generalizzazioni, ma mi viene da dire, no, i saccheggi che sono stati fatti per secoli ovviamente non mi sembra proprio quasi il minimo sindacale, quindi non soltanto era, ce lo potevamo aspettare, ma era quasi auspicabile, cioè giusto, no? Sono paesi totalmente depredati, quindi non vedo perché no. E depredati, noi non parliamo appunto della Polonia, ma anche attualmente, insomma, per cui questo non è il caso della Cina, non è l'Italia nei confronti della Cina, ma per altri contesti invece questo ragionamento dobbiamo assolutamente farlo. Prima diciamo, t'ascoltavo mentre parlavi dell'Egitto e a un certo punto ti sei scivolata sull'America Latina e pensavo, no, alla presenza latinoamericana in Italia e mi dicevo, sono scivolata nel senso, per dire che le sparizioni e le dittature ne abbiamo parlato tanto, esatto. Insomma, rispetto almeno a questa radio, tante rispetto a quelle dell'America Latina, ma non è che se dimentichiamo quelle più vicine. No, infatti però, ma infatti proprio rispetto a quello che stavi dicendo, un'altra riflessione che mi viene in mente era proprio, mi è capitato insomma un anno e mezzo fa non so, di parlare comunque, non mi ricordo neanche se era un docente universitario che si occupava di immigrazione, un ecuadoriano, ho incontrato in una situazione insomma di convegno, di incontro, e non mi ricordo se era sociologo, antropologo eccetera, e questo a un certo punto ha detto esattamente le cose che stavi dicendo te, rispetto, lui lo parlava rispetto al centro e Sud America, no? Dava anche delle motivazioni per cui oggi alcuni flussi sono diminuiti, sì. Però la motivazione di fondo era, ma dopo che, come dire, il primo mondo è venuto a depredare eccetera, che vi aspettate? E poi lo diceva anche come lettura sull'Africa, ha voglia a quanti dovranno venire, chiaro, col furto della terra che fanno i cinesi, col furto di quello che sta avvenendo in Africa eccetera, questi flussi aumenteranno, ma certo, dovete impararli a gestire, diceva tra virgolette alla platea italiana, non che dovete pensare che non esistono, e prendeva come esempio proprio che nel miglioramento di alcune condizioni in alcuni paesi, a parte diceva che la migrazione interna, come dici te, è sempre molto più alta di quella che noi abbiamo come ricaduta, in qualsiasi parte del mondo parli, lui l'ha fatto come esempio nell'Africa, nell'America Latina, lo stai facendo te sulla Cina e dappertutto. E poi, insomma, diceva anche alcuni flussi migratori sono, come dire, inevitabili, alcuni si possono, tra virgolette, ridurre, contenere in virtù di migliori condizioni di vita nel proprio paese. Per chiaro, cui ce l'hai solo chi lo fa per scelta e chi non per necessità. Certo, anche se poi appunto uno poi ragiona sul concetto di scelta e dici, sai, quando uno sceglie di mollare, ritornando ai cinesi, lasciare le famiglie, mamme che lasciano i figli piccoli, così come abbiamo nominato l'America Latina, cade la maggior parte delle donne latinoamericane che ho avuto modo di conoscere insomma in tanti anni, stesse donne che migrano da sole, la stessa cosa vuol dire delle donne cinesi, sono particolarmente prevalentemente donne. Ah, ecco, pure questo te l'avevo detto, sì, è vero, prevalentemente giovani donne, ma infatti il fenomeno diciamo di queste conversioni al cristianesimo cinese, che è un fenomeno anche relativamente nuovo da quello che ho letto, cioè nuovo tra virgolette insomma, però insomma non è poi così longevo, è un fenomeno prevalentemente femminile. E anche questa sarebbe una riflessione tra virgolette insomma da fare. Ora non so se vuoi dare una tua impressione, insomma ipotesi, sviluppo pure di quello, o forse questo tema lo riprendiamo pure più avanti senza arrampicarci sugli specchi in valutazione che non siamo in questo momento in grado di fare, non so, dimmi te. E rispetto, sì sì, no, rispetto, dicevi alcune sembra che il flusso stia diminuendo, se è solo un problema di visti italiani o solo un problema insomma, come dire, di spostamenti, se c'è una lettura in questo senso, se questo è un problema dei diritti delle donne, non so come dire, no? Questo ti direi che non lo so, ma credo che non lo so io, e credo che non si possa dire momentaneamente. Quello che ti dico è che appunto, come parlavamo prima, se ti apri il sito del Ministero dell'Interno e vedi i dati rispetto alle richieste d'asilo che sono state fatte negli ultimi anni, ti rendi conto che nel 2018 non appare più la Cina. E uno dice, vabbè, allora si incrociano due dati, si legge un po' il contesto geopolitico e dici, ok, allora probabilmente ragionando anche con una serie di colleghi, forse questo potrebbe essere un motivo, i visti che abbiamo detto prima, e forse ci sono dei flussi che si stanno spostando in altri paesi, forse c'è qualche altra apertura. Momentaneamente in Italia stanno arrivando di meno, questo credo di poterlo dire. Ora sono le ragioni, ancora non le sappiamo. Certo è però che le persone che sono invece già arrivate stanno qui, momentaneamente stanno qui, a differenza di altre popolazioni che provengono da altri contesti, che invece transitano. E che spesso, insomma, alcuni loro transitano anche perché si spostano in beffa a Dublino, in altri contesti europei, perché le famiglie girano in altri contesti europei. Qui parliamo di una migrazione appena nata, veramente neonata, e con ragazze, giovani donne, dice giovani donne all'italiano, un po' diciamo sui 40, dai 40 in giù, insomma. Sì. Giovani donne. E su queste giovani donne noi, insomma, li salutiamo, magari l'invito è riparlare di scene anche di alcuni fenomeni, magari ci rivediamo pure di venire qui in radio, magari anche se tu sei a conoscenza con altre persone che ci aiutano a leggere anche questa realtà, ad avere degli elementi per poter leggere e interpretare questa cosa sta avvenendo intorno a noi. È vero che poi mi sembra un po' parli, parlavamo prima con l'altro compagno dell'Egitto, ma ne parlavamo, quando facciamo le corrispondenze con la Grecia, c'è sempre questo Fondo Monetario Internazionale che decide le politiche di tutto, c'è sempre una compatibilità economica e una corsa a riarmo che comunque decide le pressioni in qualsiasi paese. Quindi, ci sono degli elementi che ci fanno chiaramente dividere il mondo tra sfruttati e sfruttatori, questo in qualsiasi parte, in qualsiasi latitudine o parallelo. Però poi ci interessa anche approfondire un po' meglio pezzi di passaggi, di storia, di cambiamenti in atto, e la Cina è anche uno di questi paesi, di cui spesso ci siamo persi dei pezzi, mettiamola così. Grazie. Grazie a voi, a te. E ci sentiamo a brevissimo, ancora un po' di musica. Thank you. bene, torniamo in onda veramente solo per pochi minuti, anzi per meno di pochi minuti, solo, non solo per salutarvi. Ho tentato e ho provato a fare un ultimo collegamento, rubando magari anche del tempo ad Allegro con Fuoco, che segue questo spazio redazionale. Non ci sono riuscita, quindi vi do semplicemente un appuntamento per dire basta la repressione. E stiamo parlando delle sospensioni per 4 mesi date a 2 lavoratori del coordinamento lavoratori e lavoratrici dello Spallanzani, e che ora la stessa modalità di sospensione dal servizio sta toccando alcune compagne e compagni del policlinico, ovvero sia parliamo di provvedimenti disciplinari, minacce di licenziamento, sospensione e quant'altro. Appunto questo tentativo sistematico di abbattimento della sanità pubblica, sembra, insomma, l'intenzione è quella di far regnare il silenzio, ovvero sia ridurre le lavoratrici e i lavoratori al silenzio e punire chi invece parla in maniera tale da far sì che, insomma, come dire, di intimorire tutte e tutti. E proprio perché il coordinamento cittadino-sanità dice no a tutto questo, c'è un appuntamento domani pomeriggio, giovedì 29 marzo alle ore 9:30 al Rettorato Università La Sapienza, per appunto portare solidarietà e contestare questi provvedimenti disciplinari. Ce ne sarà poi un altro l'11 aprile alle ore 12 alla direzione del Policlinico Umberto I. Questi sono insomma, i 2 appuntamenti, quindi uno domani mattina alle ore 9:30, uno l'11 aprile alle ore 12. E ovviamente dai microfoni di questa radio anche 2 settimane fa, proprio in questo spazio, erano qui con noi alcune compagne e compagni sia del Policlinico sia di altri ospedali romani. Noi riapriremo i microfoni, cercheremo di contattarli, ma insomma in questo momento purtroppo, insomma, come dire, lo spazio redazionale è finito. Un abbraccio particolare, un saluto particolare a tutte e tutti coloro privati della propria libertà, e vi lasciamo con la trasmissione che segue, Allegro con Fuoco. Anzi, intanto un po' di automatico.